9 in punto, la versione di Oscar. Oh, buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 9 di maggio, San Beato, e verrebbe voglia di dire beato lui, perché da un certo punto di vista, se guardiamo le cronache delle vittime della crisi quotidiane, non possiamo che dire beato lui, San Beato. Ieri altri tre italiani sono state vittime della crisi, si sono rese vittime della crisi perché si sono suicidate. Si è suicidato un imprenditore a Milano che aveva 60 anni, era titolare di un'azienda in crisi, e si è impiccato a Cesate a Milano e hanno trovato il corpo nei boschi del Parco delle Groane, dei passanti, e aveva delle difficoltà a pagare i dipendenti della sua azienda, sposato, padre di due figli, e si è impiccato a un albero. Nel biglietto che è stato trovato ai piedi dell'albero ha spiegato che troppi debiti e non poteva più pagare. Ma non c'è solo lui, c'è un operaio disoccupato che si è sparato a Salerno, era un operaio edile, Angelo Coppola, e si è ucciso con una fucilata al petto. Era disoccupato da Natale, era avanti con gli anni, aveva moglie e figli, viveva a San Valentino Torio, nella provincia di Salerno, e anche lui ha lasciato un biglietto prima di spararsi: senza lavoro non si può vivere. E ancora Generoso Armenante, 48 anni, si è impiccato a Salerno ed è stata la figlia che a 19 anni a scoprirne il corpo. Anche lui aveva un problema con il lavoro, era un disoccupato e senza lavoro non si può vivere. E il biglietto che ha lasciato. Ecco, questo è il bilancio di un solo giorno, il giorno successivo al turno delle amministrative in Italia, e sentiamo in questo stesso giorno le parole che ha pronunciato il Presidente del Consiglio, Mario Monti. Ma ha senso preoccuparsi di espandere la capacità produttiva di un'economia e intanto con le mani stesse dello Stato eliminare una parte di capacità produttiva che si trova presso piccole imprese, il più delle volte produttive, ma alle quali facciamo mancare la liquidità e quindi le facciamo spesso chiudere, per non dire di altre conseguenze umane che a volte si verificano e che naturalmente dovrebbero fare riflettere soprattutto chi ha portato un'economia come quella italiana a questo stadio, non chi cerca di farla uscire da questo stadio. Allora, avete sentito testualmente l'algida freddezza con la quale il Presidente del Consiglio parla delle conseguenze umane. Non si porca neanche la lingua a parlare di suicidi, di vittime, di vite spezzate. Sono termini evidentemente troppo caldi, li usano le teste calde come me, ovviamente. Conseguenze umane, e accennando con questa algida, meticolosa termine da sala settoria, da notomista, dice che naturalmente dovrebbero preoccupare solo coloro che hanno portato l'Italia in queste condizioni, non noi, il mio governo che si occupa invece di tirarla fuori dalle secche. Allora, io apposta sto molto vigilando il mio tono per evitare di farmi stavolta cacciare davvero su da Radio 24, perché avrei voglia di gridare, avrei voglia di dire che cosa ha questo tono innanzitutto, e poi i termini usati, mentre anche ieri c'erano tre suicidi, e soprattutto poi il dire che il governo in carica fa spallucce, dice ma è colpa di Berlusconi. Lui non deve dormire la notte, io sto tentando di risolvere il problema. Allora, Berlusconi, il centrodestra, me l'avete sentito dire mille volte, hanno una lista infinita di responsabilità pesantissime per non aver capito in quegli anni dove stava andando avanti la crisi italiana e quella dell'eurocrisi, e per aver detto che no, era tutto a posto, e per aver sbagliato a far salire la spesa e le tasse, tradendo 17 anni di promessa elettorale al proprio corpo elettorale. Però c'è un piccolo particolare. Detto questo e ribadito, E il governo in carica, cioè il governo Monti, e il governo in carica che di fronte alla strage di migliaia di piccole imprese italiane, testimoniata dalle lettere che abbiamo ricevuto, lo sapete, non ve lo ripeto, disperate mai, chiocciola24.it, e dalle vittime di lavoratori dipendenti come di imprenditori che si sparano, si impiccano tutti i giorni. E questo il governo in carica, che dovrebbe dire per esempio che i 100 miliardi di debiti commerciali, crediti fiscali, che lo Stato si tiene in tasca per anni e non paga alle imprese, 100 miliardi sono più di 6 punti di PIL. È il governo in carica che dovrebbe trovare il modo, che c'è, per rimetterli subito in circolo nell'economia italiana, per tentare di guardarsi allo specchio, visto che fa campagne sul fatto che gli evasori fiscali saremo noi cittadini, mentre lui non adempi il contratto e si tiene quello che si è preso e non ti paga quello che ti deve. E il modo per farlo, in pieno rispetto, senza deficit e debito aggiuntivo pubblico, quindi nel pieno rispetto del saldo di bilancio europeo e senza voler fare gli scassabilance come Tremonti e Berlusconi, quei famigerati banditi da impeccare, c'è, e lo abbiamo spiegato tutti i giorni che c'è, perché una clausola pro soluto che renda possibile alle banche scontare debiti commerciali si può fare attingendo alle garanzie di Cassa Depositi Prestiti, che non fa debito aggiuntivo, e idem si può ricorrere a Cassa Depositi Prestiti direttamente per un'operazione straordinaria di compensazione dei crediti fiscali, ma di questo ce ne occuperemo nella seconda parte della trasmissione. Io vi dico solo che queste parole del Presidente del Consiglio, e non ho intenzione di passare per nostalgico dei governi precedenti, ieri mi hanno agghiacciato, perché come avviene con gli esodati, come avviene con l'IMU, sembra quasi che il governo non si renda conto che usare questi toni, queste parole, contribuisce, come aver radicato il terrore che per decine e decine di migliaia di italiani fuori dall'età della pensione oramai per anni e senza posto di lavoro verranno abbandonati a se stessi, come far capire alla gente che sarà una rata, due rate, tre rate, l'IMU, ma chi, ma dove, ma come, ma quando, c'è la sanzione, non c'è la sanzione, tutto questo contribuisce ulteriormente ad atterrire gli italiani, contribuisce ulteriormente a quella curva di disperazione che fa uccidere la gente. Io penso che forse veramente dobbiamo pensare dal basso a un gesto simbolico, una specie di memoriale delle vittime dell'Italia nel lavoro che non c'è, mettendo insieme tutti gli anni, ci aggiungiamo tutti i mesi, ci aggiungiamo i nomi degli imprenditori che si suicidano, come dei lavoratori dipendenti che si suicidano perché disoccupati, come di tutte le vittime degli incidenti sul lavoro italiano. Così almeno ci rimettiamo la faccia di fronte a un grande muro con i nomi e cognomi di tutti gli italiani che non riescono a campare, perché questa è la condizione di un paese che improvvisamente quest'anno perde 3 punti di consumi pro capite. 3 punti di consumi pro capite, più di 3 ne perderemo quest'anno, sono il doppio di quelli persi nel 2008-2009, che erano l'1,7. E nelle serie storiche italiane hanno come paragone solo quello che avviene nel 74-75. Cioè noi siamo in presenza di una frattura storica di proporzioni, lo dicono i dati, e sto parlando, come vedete, senza perdere il controllo, che per un economista serio è un problema serissimo, nero. Ecco perché la gente si spara. Non è che si spara perché improvvisamente ha aperto gli occhi, ha visto la foto di Berlusconi e dice Dio mio, chi ho dato il voto, e si spara per quello. No, anche se hanno sbagliato a darglielo. Ecco, capite? Allora, spero di non aver offeso coloro che dicono che io mi lascio andare a toni impropri e che la radio mi deve cacciare per questo. E erano incommentabili le parole di Monti. Me la cavo così. E andiamo alla prima questione che affrontiamo nella trasmissione di oggi, che è un tema legato alle elezioni amministrative, al turno delle elezioni amministrative, al primo turno che si è tenuto ieri. La questione è quella giustamente affrontata, le conclusioni mie sono radicalmente diverse, ma giustamente affrontata nella sera stessa, per esempio nella trasmissione di Gardner, l'infedele era: ma come è possibile che sia scomparsa l'area moderata? Che fine ha fatto? Naturalmente la lettura della prima ora del turno elettorale era una lettura profondamente adulterata, come capita spesso, perché in realtà a essere bastonati sono tutti, perché io vi invito, se non credete a me giustamente, a vedere le percentuali elaborate del voto per coalizioni e per partiti 2012, questo turno amministrativo sul 2010 dall'Istituto Cattaneo, li trovate sul Corriere della Sera pagina 5, e qui vedrete che i grandi vittoriosi, cioè il PD avrebbe vinto alla Hollande, si diceva, la sinistra avanza, diceva Gerd Lerner rivolgendosi a un parlamentare del PD, ma non ti vergogni di aver votato all'azzeramento del deficit in Costituzione. Piccola parentesi, la formula votata per la riforma costituzionale non obbliga affatto, come abbiamo spiegato più volte, all'azzeramento del deficit, e io dico purtroppo, purtroppo, e tantomeno poi vedere un parlamentare del PD incalzato in televisione come una specie di servo di Milton Friedman, uno schiavo dei neoliberisti. Ognuno è libera di metterla come vi pare, però visto che ci sarebbe stata la sinistra che avanzava trionfalmente, leggo i dati di che cos'è il voto per partiti di questo turno amministrativo 2012-2010. Il PD ha perso il 29%, l'Italia dei Valori ha perso il 58%, la somma il CEL eccetera eccetera ha perso il 15,6%, il PDL ha perso il 54,4%, la Lega ha perso il 67,4%, l'UDC ha perso, e quello che perde meno di tutti, il 6,5%. Questo per essere chiari, quindi il Presidente della Repubblica non avrà visto il boom elettorale, però si è distratto, oppure c'è bisogno che qualcuno al Quirinale anche lì gli faccia vedere un po' i numeri, perché questi sono i dati di una botta generale, certo molto più pesante per il centrodestra, PDL e Lega, meno 54, meno 67, ma se il PD inneggia la vittoria con un meno 30% e l'Italia dei Valori con un meno 58%, beh auguri, gli diamo un pallottoliere tutti, perché a furia di non guardarli i numeri. Allora partiamo dalla domanda: ma questo meno 58 del PDL, cominciamo soprattutto da questo, anzi meno 54,4, perdonate, che cosa vuol dire? Che sono stati a casa e che chiedono un'offerta politica diversa, semplicemente che hanno votato altro, hanno votato anche a Parma, si capisce per esempio che una parte dell'elettorato moderato ha votato il Movimento 5 Stelle che va in ballottaggio, e come reagisce chi è in Parlamento per il PDL e magari aveva aperto gli occhi anche da prima e iniziava a dire qui andiamo a sbattere, ma non è stato ascoltato? Ecco, lo chiediamo proprio a uno di loro, all'onorevole Giorgio Stracquadagno, e gli chiedo di rispondere innanzitutto: secondo lei i vostri elettori sono più rimasti a casa o hanno votato altri, da quello che ha capito leggendo i dati? Ma non solo secondo me, ma secondo quello che dicono i sondaggisti come Mannarino e la stessa Alessandra Ghisleri, che sarebbe la sondaggista ufficiale in qualche modo del Popolo della Libertà. Oltre il 40% degli elettori che nel 2008 hanno votato per il Popolo della Libertà sono stati a casa e sono la quota più rappresentativa, perché solo il 36% ha confermato il proprio voto, e quindi se non hanno trovato un'altra opzione è perché hanno voluto punire severamente che cosa? Il nostro governo. Io sono, oggi lo dico in un'intervista alla stampa dove chiedo l'azzeramento dei vertici della classe dirigente del mio partito, perché quando si prende una sconfitta elettorale di questo genere o si aprono gli occhi o altrimenti si è destinati all'estinzione, e io credo che purtroppo noi siamo destinati all'estinzione se andiamo avanti così. Ma il segno caratteristico è che i moderati, che sono sempre meno moderati, sono sempre più incazzati, se mi permetto il termine, non hanno votato contro il governo Monti, su cui poi ho moltissimo da dire e condivido tutto quello che lei ha detto in introduzione, ma hanno voluto sanzionare il fatto che noi abbiamo proposto una proposta, offerto una proposta politica liberista, e abbiamo fatto l'esatto contrario. E quando si fa l'esatto contrario di quello che si propone non ci si può attendere altro che una vera punizione dai direttori, e questo è il senso della democrazia. Vabbè, speriamo che qualcuno l'ascolti. Senta, ma si aspettava, perché molti poi iniziano a contestare tra gli ascoltatori, ma questi sono i sedicenti moderati, poi in realtà che vuol dire moderati? Anche i grillini possono essere moderati a prescindere dalle intemperanze di Grillo. Va bene, ma al di là dei termini, se qualcuno si aspettava che a cedere fosse solo la destra, oppure la destra e la sinistra, cioè il bipolarismo, perché questa era l'impostazione con cui Casini, l'UDC e anche una frangia del PDL, per essere chiari, pronta a uscire e a salire su questa barca, penso alle interviste rilasciate dall'onorevole Pisano, da occhieggiamenti dell'onorevole Scaiola e così via, cioè diciamo la parte cattolica militante che si è trovata sempre peggio negli ultimi tempi nel PDL, faceva capire, ma qui bisogna, col terzo polo, l'UDC, immaginare un altro tipo di aggregazione, cambiare la legge elettorale in quella proporzionale. Ecco, questa ipotesi a me pare sconfitta, come il giudizio dato, che lei ha ricordato, dagli elettori del PDL su che cosa il PDL ha fatto. Ma in Parlamento i suoi colleghi nel suo partito, secondo lei, la pensano così, oppure continua lo schema della riforma elettorale ABC proporzionale eccetera, secondo lei? Ma quella pare che sia stata esclusa indicando in quello il rischio greco. Le elezioni in Grecia si hanno dimostrate con la riforma elettorale di tipo proporzionale e come che era molto simile a quella che si stava discutendo, porta agli esiti di totale ingovernabilità. In Grecia si parla esplicitamente di nuove elezioni tra un mese. Ma il punto chiave è questo. Secondo me noi siamo in una crisi di sistema molto simile a quella del 92-93. All'epoca le tensioni sulla moneta, la crisi economica, una finanziaria da 90 mila miliardi di lire, quella del governo Amato, e la delegittimazione del sistema politico, perché la crisi diciamo legata a Tangentopoli stava spezzando il sistema politico, sono stati un combinato disposto per cui è crollato il palazzo ed è emerso qualcosa di nuovo. Si stava preparando, stava nascendo il centrodestra italiano, con una proposta che era del tutto innovativa e di stampo liberista, e Lega e Forza Italia ne erano gli interpreti. E la capacità di Berlusconi fu mettere insieme questa proposta e unirla su tutto il paese. Il punto chiave è che siamo nella stessa situazione, solo che noi stiamo facendo la parte della vecchia democrazia cristiana, cioè di quelli che non si rendono conto di quello che sta accadendo e che pensano che attraverso contenitori politici, federazioni di moderati o cose del genere, gli italiani possano tornare a votarci. Se noi avevamo un leader, un programma innanzitutto e una coalizione, il leader non ce l'abbiamo più, è evidente dalle parole stesse del leader. Il programma si è vaporizzato e siamo oggi, io le sto parlando mentre sto facendo una battaglia, io e la collega Bertolini, contro la reintroduzione del finanziamento pubblico dei partiti, perché la risposta del sistema al voto di questo fine settimana è quello di reintrodurre il finanziamento pubblico dei partiti. Mi chiedo se ci sia della follia che anima questi uomini che abbiamo intorno. E andiamo verso un crollo senza che ci sia una proposta politica di quel tipo, come quella che avremmo allora, che si può riaffacciare. Lei scrive spesso: occorre oggi un'offerta politica dura e pura e bisogna chiedersi se non è il caso di mettersi al lavoro su questo. Io le dico: mettiamoci al lavoro su questo. Secondo lei il Movimento 5 Stelle, che anche lì ieri non capisco come istituzionalmente il Presidente della Repubblica ha detto non vedo il boom, non è questione di quantificare, irrompe con forza fortissima, con forza evidente, no? Ma secondo lei rispetto all'analogia che lei ha fatto della crisi attuale rispetto a quella del 92-93, un ruolo nella diversità del leader, dei toni toccati eccetera eccetera, ma paragonabile alla spallata di sistema che diede allora la Lega insieme a Mani Pulite, e questa volta è il Movimento 5 Stelle Grillo insieme ai temi della corruzione e del finanziamento ai partiti, oppure no secondo lei? Non c'è dubbio che è molto simile, ed è molto simile anche nei toni e nei modi che hanno questi rappresentanti del Movimento 5 Stelle che si sono confrontati in queste elezioni amministrative, perché noi abbiamo da un lato Beppe Grillo che, come dire, infiamma le piazze con proposte incredibili, tipo quella di non ripagare i BOT, per cui allo Stato ladro di tasse aggiungiamo lo Stato rapinatore dei risparmi. Ecco, quindi da questo punto di vista sono spaventato quando nasce un certo avventurismo di questo tipo sulla pelle di un paese. Ma in realtà i toni di tutti questi candidati mi paiono molto diversi, mi paiono persone come si dice, che hanno qualcosa da dire, che hanno una passione civile, che hanno un impegno e che possono essere il catalizzatore del collasso di sistema, visto che le forze politiche, i partiti sono tornati a essere quei partiti distanti dal mondo reale, dal loro blocco sociale. Noi, il Popolo della Libertà, aveva promesso non più di 3 anni fa la riduzione della spesa pubblica per abbattere il fisco, per rilanciare l'economia, e siccome l'unico provvedimento di crescita che io conosco al mondo è quello di abbattere le tasse sul lavoro e sulle imprese per far crescere lavoro e imprese, non ne conosco altri, mentre sento in giro che la crescita sarebbe fatta a suon di spesa pubblica e di altri redditi. Ecco, siccome noi abbiamo smarrito questo orizzonte, non parliamo più di queste cose, non sappiamo che cosa fanno i nostri elettori, di che cosa soffrono, ci dimentichiamo anche di riportare in Parlamento giorno per giorno quel drammatico elenco che lei oggi ha integrato con gli ultimi tre casi di, io mi chiamerei quasi omicidi di Stato, perché da questo punto di vista è il comportamento dello Stato che porta queste persone a queste scelte finali. Ebbene, in tutto questo io credo che se non ci si dà una mossa, ma una mossa rapida, io ho chiesto oggi l'azzeramento degli azzi del PDL, perché nei partiti, nelle organizzazioni politiche si fa così, si deve litigare quando si perde, se non si litiga, se non si comincia a capire qual è il problema e si pensa di risolverlo con degli escamotage da contenitori, facciamo la federazione dei moderati, facciamo la legge elettorale proporzionale, tutti trucchi come dire, che aggirano il cuore del problema, cioè cosa facciamo del paese, secondo me non ne veniamo fuori e purtroppo, se devo dire la verità, da dentro il palazzo sono molto preoccupato che non se ne venga fuori. Sono qui in commissione appunto a discutere di finanziamento pubblico invece che a discutere di abbattimento della spesa pubblica. Va bene, onorevole Stracquadano, la ringrazio, più che dirle che le auguro di trovare in Alfano questa energia, per il momento non si è vista, è una pura battuta perché so che ha già rilasciato dichiarazioni stamattina dicendo appunto basta con Alfano e coordinatore, adesso via tutti, vediamo se prevale questo spirito di un bilancio aperto e senza... diciamo ottimismi diplomatici sulla possibilità per PDL di continuare ad andare avanti così com'è, guidato da chi continua a guidarlo sotto falso nome e con elettori che giustamente lo mandano a quel paese perché ci avevano creduto. Ed eccoci tornati in studio, il secondo tema del giorno è la compensazione mancata da parte dello Stato dei crediti IVA. Io ricordo a tutti che l'istituto della compensazione dei crediti IVA e fiscali in generale non esiste in nessun altro ordinamento dei paesi avanzati europei tranne che in Italia, perché in Francia e in Germania ad esempio si ha diritto, e avviene davvero così, a una piena compensazione dei crediti fiscali nello stesso anno di esercizio fiscale in cui lo si matura, quello immediatamente successivo, nel trimestre immediatamente successivo. In Francia, se non si ottempera a questo, l'impresa contribuente che ritiene di avere diritto e ha naturalmente la certificazione di questo, si presenta all'emanazione territoriale dell'equivalente alla nostra agenzia delle entrate, che verifica immediatamente e nel caso provvede ad accreditare con tanto di lettera di scuse. Ecco, noi siamo gli unici che abbiamo la compensazione, però la compensazione in cui lo Stato per anni non paga, e non c'è nell'ordinamento attuale alcun criterio che consenta nella messa in pagamento dei rimborsi IVA e dei crediti fiscali di selezionarli per merito, per evitare che questo possa significare chiudere, come invece oggi avviene, una delle ragioni fondamentali per cui si chiudono le imprese e poi purtroppo gli imprenditori dipendenti si suicidano. E non basta, perché al novero di impegni non mantenuti dallo Stato, in questo caso ladro, ci sono anche diversi impegni legislativi che si sono aggiunti negli anni, dalla direttiva europea contro i ritardi dei pagamenti, e il decreto anticrisi del 2010, il numero 78, no? Che prevedeva l'immediato entrato in vigore dal 1 gennaio 2011 delle compensazioni tra crediti commerciali e somme iscritte a ruolo. Naturalmente però quel decreto legge è completamente non attuato, perché il decreto attuativo lo Stato ladro, miserabilmente ladro, non ha mai emanato. È andato sui giornali quel decreto legge dicendo che il governo, in quel caso del centrodestra, vi consentiva la compensazione tra le somme iscritte a ruolo dei vostri crediti, ma la Ragioneria Generale dello Stato, come il ladro la notte che viene e vi dà le botte mentre dormite, naturalmente vi ha turlupinato, perché il decreto attuativo non è mai stato fatto. Ecco, di fronte a tutto questo noi vi proponiamo due testimonianze. La fredda descrizione dei mancati adempimenti del ladro che si chiama Stato, adempimenti legislativi, ve l'ho fatta ancora una volta senza turbare coloro che mi mandano sms dicendo che sono leccapiedi berlusconiano, che si vede dal tono che irride oramai Radio 24. Voglio sdignarvi ancora di più, perché rispetto agli adempimenti di legge non rispettati, sentite invece il tono con cui il Presidente del Consiglio Monti toccò la questione dei crediti IVA pochissimi giorni fa. Io vorrei iniziare con una parola di sdegno. Chi ha governato, chi governa, chi intende proporsi per il governo del proprio paese non può giustificare l'evasione fiscale, né tantomeno istigare a non pagare le tasse o a istituire personali e arbitrarie compensazioni tra crediti e debiti verso lo Stato. Altri sono i modi in cui in un paese serio si risolvono problemi seri come quelli che l'Italia ha in questo momento, avendoli ereditati da decenni di politiche spesso non serie. Ecco, io proporrei di fermare qua, capito? Lo sdegno verso chi propone arbitrarie e personali forme di compensazioni tra crediti e debiti dello Stato. Io tutte le volte che ascolto lo sdegno del Premier quando l'elenco di mancati adempimenti di legge e di direttive europee in materia dell'unico paese europeo che per anni si permette di non pagare ai suoi contribuenti i crediti, mentre altrove lo si fa in 3 mesi, anche qui mi gratto la testa e io dico viva il governo tecnico, perché adesso con la crisi greca, la Grecia arriva a elezioni e c'è Citigroup che dice che il 75% di percentuale di uscita dall'euro, Bankia in Spagna, le 7 casse di Spagna quest'anno peggio, non basteranno, vedrete, i 13 miliardi di aiuto pubblico a cui si sta pensando, quindi si incendia di nuovo l'Europa. Dio ci salvi, però stando su questo tema di un Presidente del Consiglio che dice che esprime sdegno di fronte a chi propone arbitrarie compensazioni che sono obbligate dalla legge, dallo strumento dei contribuenti e direttive europee, sentiamo una testimonianza invece di che cosa possa a un'impresa sana, forte, a un vanto anche nel settore dell'economia italiana, comportare l'accumularsi nel tempo di uno Stato che si permette di non pagare quello che deve. E abbiamo con noi Giampiero Calzolari, che è il presidente di Granarolo. Buongiorno Presidente. Buongiorno a lei. Allora, buongiorno. Io la tengo al di fuori di ogni polemica, semplicemente ci tenevamo a farle spiegare a quanto ammonta e come possa arrivare a una cifra simile ciò che voi aspettate in credito dallo Stato su questa partita. Intanto la ringrazio per questa opportunità. Noi da qualche tempo stiamo sollecitando un'attenzione sul tema insieme ad altri imprenditori come noi. Aspetti, io se ha una radio accesa le devo chiedere solo di abbassare perché sennò fa risonanza. No. Ah no, ecco, vabbè, allora è il collegamento, perfetto. Allora, prego, proviamo ad andare avanti. Ecco, dicevo, noi siamo un'azienda che si occupa di latte, come è noto, e il problema si pone che noi compriamo un regime di IVA e vendiamo un regime diverso. Il tema è che in questo modo abbiamo accumulato negli anni qualcosa come 67 milioni di credito, 67 milioni di euro di credito. L'anno scorso erano 45, poi sono stati 57. Stiamo parlando di crediti che risalgono ormai i primi, i più vecchi, diciamo così, quelli più stagionati, al 2010. E capisce bene che un'azienda che sia privata delle proprie risorse per un'entità di questa natura, come dire, perde un'opportunità. Ecco, diciamo. Cioè, per capirci, per esempio, per fare un po' per capire a chi ci ascolta rispetto alle proporzioni del vostro business, voi siete un'azienda sana, che è cresciuta negli anni, ha comprato concorrenti come Yomo. Significa che lo Stato, per esempio, vi deve 11 volte quello che i dividendi che sono stati dati ai soci, che insomma dà l'idea di quanto pesa averlo sulla spalla. Come mai, Presidente, in questo settore, ne abbiamo già parlato una volta con cooperative che lavorano nel latte, anche lì il Presidente venne a spiegarci la particolarità del vostro settore, ma come mai nel vostro settore, che è un classico settore in cui il problema dell'ammontare dei crediti dipende dall'intermediazione tra aliquote di IVA diverse, come mai neanche in chi, quindi non può essere sospettabile dallo Stato, per così dire, Monti non si deve sdegnare, fate un mestiere in cui intermediate una catena di trasformazioni in cui i regimi di IVA sono diversi, è ovvio che si matura un credito per l'impresa intermediaria, ma com'è che neanche per voi ad hoc il regime tributario ha mai capito, ha avuto un minimo di barlume di intelligenza che in questo caso bisogna distinguere rispetto agli altri? Io credo che una ragione non ci sia. Noi purtroppo come contribuenti molte volte ci facciamo una ragione delle cose che ragioni non hanno, no? Le dico questo, insomma, 45 milioni l'anno scorso paradossalmente si poteva ritenere che fosse un dato fisiologico. In realtà non è così, perché soprattutto oggi con le difficoltà che ci sono anche a ricorrere al credito, ovviamente questo appesantisce i bilanci di chiunque. Tenga conto che noi abbiamo recentemente perfezionato un'acquisizione, più o meno con una cifra analoga abbiamo acquisito un'azienda che fa 130 milioni di fatturato e che dà lavoro a 225 persone. Cioè, quando io dico non abbiamo bisogno di provvedimenti ad hoc per sostenere il nostro settore industriale, paradossalmente, dateci i nostri soldi, semplicemente, ci restituite i nostri soldi e noi siamo in grado di fare investimenti, di mantenere un adeguato livello di remunerazione del latte, di pagare gli stipendi e così via. Senta, talvolta i piccolissimi artigiani, commercianti, quelli che si sentono soli e disperati, invidiano a un'impresa che ha considerevole consistenza come la vostra il fatto di immaginare che voi abbiate dei canali preferenziali, per così dire, cioè anche da parte dell'Agenzia delle Entrate. E così, oppure no, nel senso che nel vostro rapporto storico, di fronte all'ammontare di questo debito dello Stato non pagato, avete un canale preferenziale e ciò malgrado voi come tutti non portate a casa niente, oppure non ce l'avete per niente? No, noi ovviamente è uno di quegli ambiti che presidiamo con molta attenzione, visto le dimensioni, e quindi direi che qualora ci fossero le disponibilità economiche, non ci sono intoppi di ordine burocratico, per capirci. In questo momento la risposta che ci viene data è proprio non ci sono le risorse per far fronte ai pagamenti. Oggi abbiamo visto questo provvedimento, no? Vediamo che significato potrà avere di riduzione, diciamo così, del debito nello Stato. Paradosso è che contemporaneamente noi saremmo in condizioni di compensare, come lei diceva, con dimensioni importanti. Pensiamo, cioè noi quest'anno abbiamo versato nelle casse dello Stato tasse sull'utile finale qualcosa come 9 milioni e mezzo, insomma qualcosa del genere. Paradossalmente paghiamo le tasse e aumentiamo il credito, no? Oppure ovviamente tutti gli altri proventi che possono arrivare allo Stato dalla gestione di un'azienda come la nostra. Quindi non ci sono canali privilegiati, c'è ovviamente una gestione molto oculata, devo dire, molto anche rispettosa, ma se non ci sono i soldi, vanno rimpinguate quelle casse. Io ringrazio il presidente Calzolaro, che è il segno di un'impresa italiana sana, che compra concorrenti. Quando dico un'impresa italiana sana, tanto per darvi un'idea, significa che noi stiamo parlando di 1000 allevatori consorziati, stiamo parlando di oltre 2000 dipendenti, di 6 stabilimenti sul territorio nazionale. Quando si arriva al punto che il debito dello Stato è quasi metà debito, credito che va verso lo Stato è quasi metà del tuo debito contabilizzato, e devi quindi appesantire in un momento così difficile il tuo rapporto con le banche per darti credito per questo, e la compensazione non avviene perché lo Stato dice che se non gli paghiamo i soldi liquidi noi, lui non paga gli stipendi. Questa è la ragione, capito? Questo è il motivo per cui non ci fa compensare. Lui ha bisogno dei nostri liquidi, perché come ogni tassicodipendente ha bisogno della dose, e quindi non ci può far compensare, e dice di non averli. Io concludo ringraziando il presidente Granola, Gian Piero Calzolaro, dicendo che conosco 20 tecnici del bilancio pubblico in grado di formulare in poche ore una risposta in garanzia e l'accesso ai fondi di Cassa Depositi e Prestiti, che non fanno debito aggiuntivo secondo i criteri europei, e che infatti in Francia Cassa dei Depositi o in Germania KfW l'equivalente hanno decine e decine e decine e decine, decine, anzi centinaia di miliardi di impieghi nell'economia reale, a differenza della nostra. Ecco che cosa vuol dire avere uno Stato, perdonatemi, che tecnicamente è un ladro, posso dirvelo senza alzare la voce, se pensate che lo faccia provocatoriamente, ma tecnicamente è così. E ripartono i Doors. Perché ripartono i Doors? Perché trovate sul Handelsblatt di oggi, quotidiano tedesco, ahimè, bisogna saperlo, come avrete capito in questi ultimi anni, Jörg Asmussen, che è il primo membro, diciamo così, dell'Eurogoverno, che formalmente dice ai greci che arrivano a elezioni, perché qui tre tentativi non funzionano per fare il governo, guardate che andate fuori se continuate così. La Troica ha annullato qualunque contatto con l'ex governo uscente greco, e quindi stiamo attenti, perché stiamo andando verso un'ipotesi realisticamente a breve in cui i mercati diranno la Grecia va fuori dall'euro, e a seguire poi c'è, come vi ho detto, il problema spagnolo, perché il problema di Bankia in Spagna è, avrà le proporzioni di una specie di Northern Rock, per chi ricorda che cosa questo ha significato. Vedremo nei prossimi giorni Angela Merkel e Monsieur Hollande che cosa tireranno fuori. Io ho solo l'impressione che in realtà qualunque cosa avvenga all'euro, l'Italia dovrà fare alcune cose, sia che l'euro viva, sia che l'euro vada in pezzi, e tra quelle c'è recuperare l'elementare fondamento per cui lo Stato, se ci vuole fare la morale, deve innanzitutto lui mondarsi da ciò che a tutti gli effetti, secondo le leggi penali e le direttive europee, lo rende ladro e truffatore. E un Presidente del Consiglio quanto più non è responsabile direttamente delle condizioni in cui l'Italia si è ridotta in Europa e nel mondo, tanto più deve dire la verità agli italiani e dire: io mi vergogno e non ho responsabilità, ma voglio che lo Stato vi torni amico, non nemico. È questo che si deve alle famiglie e a chi sopravvive, a chi si suicida ogni giorno in questo paese, perché manca il lavoro e l'impresa. A domani. 9 in punto, la versione di Oscar.